consorte. Meglio. D'una nipote, voi scorgete l'affanno. D'un amico, voi sempre il dolore. Stabilito il contratto, me ne diè la parola. Oh, questa è bella. Il continuo, credete, la nipote, sappiate. Ma diavoli, quietate.